sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il Falco e il Gabbiano, da lunedì a venerdì alle 15.30, solo su Radio 24. Versione di Oscar Giannino. This is the end, beautiful friend. This is the end. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, in questo venerdì 6 di febbraio, sono le 16.30 primi. 42 secondi in diretta agli studi di Radio 24 di Milano. Oscar Giannino vi saluta e continuo a ricordarvi l'indirizzo versione di Oscar @radio24.it. Perché anche oggi la puntata, come vedete sta diventando molto frequente la cosa, viene esattamente da una lettera di un'ascoltatrice che ci ha fatto pensare che sia giusto far parlare lei oggi, e vi pongo subito la questione di cui, scusate, tosse, di cui parliamo oggi, quindi chiedendovi se volete intervenire all'800 24 00 24 o mandarci sms al 3492 386 666. Allora, a questo ennesimo anno di crisi italiana, e quando anche ieri, come avete visto, le previsioni per il 2015 rilasciate dalla Commissione Europea, altro che il 2,1% previsto da Confindustria, anzi trattino, il presidente di Confindustria stamattina ha smentito che quel 2,1% del centro studio di Confindustria sia una vera previsione di crescita per il PIL dell'anno, però di quest'anno, insomma, un po' un infortunio grave per Confindustria. La Commissione Europea ha stimato che nel 2015, se tutto va bene, l'Italia torna sia a crescere, ma solo con un più 0,6%. Allora, domani mattina ai conti della Belva approfondiremo meglio questa faccenda, ma oggi, in queste condizioni, la domanda che vi faccio è: ma voi, in questi anni di crisi, a oggi, se doveste giudicare, chi è che alla fine ha capito di più il modo per dare una mano a tantissimi italiani che o non riuscivano a pagare non solo le tasse, ma anche quello che dovevano, no? Ai propri clienti, dipendenti e così via. Tra lo Stato da una parte col fisco, il fisco con l'Agenzia delle Entrate nell'ultimo anno e mezzo ha deciso una serie di rateazioni che arrivano fino a 72 mesi e così via. Ecco, tra lo Stato da una parte e le banche dall'altra, nella vostra esperienza, chi alla fine della fiera, fino a questo momento, ha capito e fatto di più per comprendere che non dovrebbe essere né in interesse dello Stato iniziare a perseguitare chi non ha i soldi in maniera certificata per pagare le tasse, e tantomeno interesse di una banca a perdere per sempre un cliente iniziando a pignorargli le cose invece che spalmargli in avanti i pagamenti, scommettendo sul fatto che poi le cose possano tornargli in bonus, la sua impresa girare meglio e così via. In piccolo, per ciascuno di noi che è nei guai ed è una piccola Grecia, chi ha capito di più quello che i greci chiedono di fare per sé come paese dell'Unione Europea, cioè che conviene dilazionare piuttosto che perseguitare? Ecco, siccome mi rendo conto che la domanda è molto ampia, però tra Stato e banche private doveste giudicare voi, senza dare i voti a chi si è comportato meglio in assoluto, ma almeno peggio dei due, fino a questo momento, chi è nel nostro paese, cioè chi è che ha veramente capito la gravità della crisi italiana? Ecco, perché questa domanda, vi chiederete voi? Proprio perché abbiamo una ascoltatrice che adesso ci spiega la sua di esperienza. Fatemi fare solo due flash prima di questo. Ieri ho dato la solidarietà ai cittadini di Agrigento per via delle ripetutissime finte sedute di commissioni con i quali i consiglieri comunali di Agrigento erano arrivati a darsi quasi 300.000 euro di gettoni per finte riunioni di commissione in un anno. Oggi, sfogliando il giornale, si capisce che la cosa avviene nelle stesse proporzioni, anzi ancora di più, a Bari e a quanto pare in decine e decine, forse probabilmente in centinaia di comuni italiani. Ecco, io sognerei un capo dello Stato che di fronte a cose di questo genere dicesse qualche cosa semplicemente per far capire ai cittadini di quei comuni che fare a ripetizione finte sedute di commissioni è una cosa intollerabile e che bisognerà creare una nuova fattispecie per intervenire, perché siccome, come è evidente, non c'è nessuna possibilità di levargli di quei soldi adesso, e beh, questa cosa è intollerabile. Secondo, risolidarietà questa volta ai cittadini di Roma. Perché, e non è una battuta, stamattina ho finalmente capito perché ci sono così tante buche per le strade di Roma. È un luogo comune, no? Della polemica antiromana. Beh, la Procura di Roma ci ha informato ieri sera che esiste, tra le tante filoni di indagini aperti per le ultime due maxi retate di funzionari pubblici del comune, della regione, ma in questo caso del comune di Roma, ce n'è una che in particolare è incentrata su una vastissima rete di connivenze e di mazzette per ripianare le buche. Ed è ovvio che a quel punto, scusate, se questo è quello che c'è dietro le buche, potete mai immaginare che le buche poi si chiudano davvero una volta per sempre? Si chiudono e si riaprono, perché si alimenta un va e viene di denari pubblici da una parte e di imprenditori che pagano mazzette per avere loro i lavori della chiusura delle buche. Allora, sembra una barzelletta? No, è la amara realtà, ancora una volta. Una amara realtà che è la cronaca quotidiana del nostro paese, di come funziona il mondo pubblico deviato, non tutto, ma quello deviato molto esteso nel nostro paese. Chiusura di queste due, solidarietà per così dire, e andiamo all'ospite di oggi pomeriggio, che si chiama Gloria Gasparini. Buonasera e grazie di essere con noi. Buonasera Giannino, buonasera a tutti. Allora, eccomi. Lei è un'imprenditrice. Una piccola imprenditrice micro, per l'esattezza. Micro, cioè la micro. 15 dipendenti. La microimpresa cosa fa? Allora, noi ci occupiamo di metalmeccanica, lavoro con terzi e realizzazione di macchine abbastanza innovative per i clienti, chiaramente altamente personalizzate. Questo ci salva perché è un settore di nicchia. In tempi di crisi, diciamo, il lavoro non manca, per fortuna. Il lavoro non manca. Esatto. Però nella lettera che lei ci ha mandato. Sì. Soppesa proprio da una parte lo Stato e dall'altra le banche. Sì, perché nella mia esperienza la nostra azienda ha preso purtroppo tre grossi fallimenti tra il 2012 e il 2013. Cosa vuol dire ha preso tre fallimenti? Degli imprenditori che io mi permetto di definire non onesti, che non meritano di essere definiti tali, sono falliti pagando puntualmente lo Stato e lasciando chiaramente i buchi ai fornitori. Dopo le spiegherò magari perché ho questa teoria su perché ha pagato prima lo Stato e poi ha lasciato fuori i fornitori. E quindi ne abbiamo avuto queste perdite su crediti, chiaramente è stata una questione di priorità, abbiamo scelto di dare precedenza chiaramente ai nostri colleghi che sono dei marinai e ai nostri fornitori che ci permettono di lavorare e abbiamo lasciato in attesa chiaramente lo Stato. Con la massima consapevolezza da parte mia mi sono comportata come il buon padre di famiglia, ecco, mettiamola così. E con lo Stato io ho deciso di aspettare che arrivasse. E questo tipo di scambio, di scelta preferenziale, l'avete fatto per una somma che più o meno ammontava a quanto? 180.000 euro di perdite su crediti. Allora qua chiaramente sono perché i tre falliti erano vostri clienti. Esatto, hanno clienti che noi onestamente dai migliori, ma perché avete continuato a fornirli per importi così importanti? Perché chiaramente noi piccoli, tra il prendere zero e quindi avere la certezza che stanno chiudendo, oppure dire ma proviamo a dargli ancora un po' di credito e fiducia cercando di aiutarli a stare in vita, abbiamo optato per la seconda, chiaramente ci sembrava più logica, comunque meno paurosa della prima. Purtroppo chiaramente sono falliti, siamo insinuati al passivo. E dall'altra parte chiaramente sono mancate le entrate per pagare puntualmente lo Stato. Avevamo chiesto chiaramente con Fondo Garanzia Veneto un finanziamento a medio lungo per chiaramente spalmare questi mancati incassi. Avevamo ottenuto una delibera, tuttavia la banca ci ha detto picche, cioè più che picche ha detto ni. Mi date lo stesso importo in garanzie reali, ovvero titoli, e noi vi diamo il finanziamento, tant'è che in centrale dei rischi io avevo il finanziamento deliberato, non dato ovviamente, nonostante avessero già tipo 10-12 volte le garanzie per gli affidamenti che avevano al tempo. Questo è il sistema creditizio. Quindi, perché le ho scritto, se vogliamo arrivare un attimo al nocciolo? Perché chiaramente in una situazione così di crisi in cui tutti chiaramente si accaniscono, diciamo, contro quelli che sono gli strumenti dello Stato, io devo essere sincera e dico che in realtà ho proprio trovato il lato positivo anche di istituzioni quali Equitalia. Sembrerà strano, ma è così. Non sembrerà strano. Perché, ripeto, il dato di fatto è che ci siamo arrivati tardi anche con Equitalia ed Agentrate. Però di fatto io per questo ho scelto la sua lettera, perché lei testimonia che insomma tardi, male e di fronte a migliaia di casi che documentiamo e continuiamo a documentare, in cui anche l'amministrazione pubblica continua a non avere i giusti criteri di eleggibilità per la rateazione dei pagamenti e così via, però lì c'è uno strumento che è stato molto dilatato, quello della rateazione. Sì, assolutamente. Allora, io ho constatato una grande flessibilità proprio perché la rateizzazione la concedono, è raro, cioè, che non venga concessa, ecco, mettiamola così, presentando tutti i documenti e viene concessa. E permettono anche una certa elasticità nel pagare le rate, chiaramente sappiamo bene che una banca quando si sta indietro con una o due rate di un mutuo diventano abbastanza pesanti, non ti lasciano più lavorare ma hai bisogno sempre di rispondere alle loro richieste, e quindi dico tutto sommato ho trovato, voglio dire, uno strumento veramente utile. Poi voglio dire, c'è sempre il pro e contro di ogni cosa, nel senso che è quello che a me fa un po' sorridere, dico, mi piacerebbe a me avere uno strumento come Equitalia nei confronti di quei clienti che mi hanno fregato. Ah, certo. Ha capito, perché alla fine io da privata imprenditrice, così come qualsiasi altro probabilmente cittadino che viene chiaramente derubato, perché io mi ritengo, voglio dire, che mi abbiano derubato dei soldi questi clienti disonesti, io devo ricorrere alla giustizia ordinaria, sappiamo benissimo i tempi, incerti, i costi incerti, pertanto mi trovo da una parte Equitalia che porta a casa le sue somme maggiorate di sanzioni e interessi, quindi diciamo la certezza di riuscire ad arrivare al risultato in qualche modo. Io dall'altra parte non ho uno stesso strumento per tutelare la mia attività e tutti i soggetti che chiaramente sono coinvolti nella mia attività, quali possono essere i fornitori, che chiaramente mi hanno dato una mano anche loro, i miei clienti, così come i miei colleghi, che ribadisco, per fortuna ho dei colleghi, ho una squadra che vale, ecco, perché in tempi così molte cose fanno la differenza. Se le chiedessi di dare un giudizio sul fatto nel suo impegno di imprenditrice e quindi nei rapporti che avete con clienti e fornitori, questa in cui voi siete incappati, cioè tre privati che vi hanno bidonato, diciamo così, è uno Stato che è più comprensivo, si sentirebbe di dire che è stata un'eccezione, oppure ha l'impressione che in questi anni di crisi sia diventata una regola più diffusa di prima di bidonarsi tra privati e poi di contare in qualche modo sullo Stato? No, allora, quasi bidonarsi tra privati secondo me è in crescita, nel senso che purtroppo imprenditori disonesti ce ne sono sempre di più, me ne rendo conto perché ho fatto una pulizia a livello di clienti anch'io per essere più tranquilla nel mio lavoro. Dall'altro punto di vista, io devo essere sincera, io non ho avuto corse preferenziali, nel senso che la mia pratica, il mio iter con Equitalia è stato uguale a quello di qualsiasi altro cittadino. Ho solo avuto un approccio diverso, io non sono andata là chiaramente a dichiarare guerra, perché non sono loro il mio problema, ma il problema semmai è chi ha istituito questo tipo di strumento e applicando tassi piuttosto che costi un po' onerosi, ma non sono le persone che sono là. Pertanto ho trovato una flessibilità, ma anche nell'atteggiamento mio, sono andata là, ho detto ho un problema, cerchiamo di risolverlo, quindi ho visto un'apertura. Poi se vogliamo guardare anche i fatti, io credo che comunque manchi ancora una vera politica industriale rivolta alle piccole e medie imprese, che sono il 97% del paese, ribadisco. Quello che viene fatto ad oggi è solo in visione del 2-3%, che sono medio grandi aziende. Pertanto, finché non si sottolinea l'aspetto, diciamo, di quella che è l'ossatura di questo sistema imprenditoriale italiano, finché non facciamo la politica per le piccole e medie imprese, da qua non se ne esce. Cioè, certo, ci salviamo, per carità, non sto dicendo questo, però potremmo fare molto di più, ecco. Potremmo veramente, questo non c'è dubbio. Cioè, a me interessava, ecco, al di là del fatto che è ovvio che la sua è una testimonianza diretta, quindi vale più di ogni discorso generale, però il punto di fondo è che, ripeto, dopo aver ripetuto per anni e fatto credere a tanti italiani che magari non hanno a che fare per via dei conti di un'impresa o di un circolante da finanziare e così via, di un magazzino da coprire, perché chi ha questa esperienza col sistema bancario sa che non è vero, però tutti gli altri cittadini che sono normali depositanti hanno creduto per davvero per tanti anni che noi avessimo questo sistema bancario quasi tra i più perfetti al mondo, che non aveva bisogno di nessun salvataggio. Loro dicevano che a livello territoriale stavano in realtà anche aumentando la disponibilità di credito, anzi hanno iniziato a dire a un certo punto no, ma se il credito cala è semplicemente perché nessuno lo chiede più e così via. Il problema è che, cari ascoltatori, è un dato di fatto, non per voler polemizzare, lanceresta con le banche, che qualche cosa di analogo nell'adozione di criteri diversi per la concessione del merito di credito a fronte della crisi e di un esame, ovviamente nessuno pretende che le banche regalino i soldi a perdere, però di un esame serio del merito di credito, cioè delle possibilità di tenere in piedi impresa, occupazione e margini di chi, come un'impresa di cui stiamo parlando oggi, è in una nicchia di mercato, risente meno della crisi di altri e così via. Ecco, qualcosa di paragonabile a questo il sistema bancario italiano non lo ha prodotto, non lo ha prodotto. E quando, e ci torneremo anche su questo punto, non in questa puntata, le banche dicono: ma signori, non è colpa nostra se abbiamo 180 miliardi di sofferenze, 150 miliardi di incagli, cioè 330 miliardi di crediti deteriorati, a fronte dei quali ovviamente le banche devono impegnare capitale a garanzia, e questo ovviamente ci rende un po' di braccio corto nel concederli, perché nella realtà anche, non tutta questa marea di crediti deteriorati, ma una buona parte dipende dal fatto che il mestiere di saper vagliare il merito di credito non lo praticavano neanche prima della crisi, quando davano tantissimo credito agli amici degli amici, a gruppi medio e grandi, amici di coloro che stanno nei consigli di amministrazione, senza esercitare una giusta attività di selezione dei piani industriali delle piccole e medie imprese. Quando l'imprenditrice che abbiamo oggi ai microfoni ci dice non c'è una tra virgolette politica per le piccole imprese, qui nessuno di loro chiede soldi allo Stato, chiede dei criteri per poter lavorare adeguati alla specializzazione, alla taglia media d'impresa di un paese come il nostro, che invece di continuare solo a ripetersi che è la seconda manifattura dopo quella tedesca, dovrebbe però avere dei criteri operativi, dei criteri tributari, di concessione al merito di credito, di ammortamento degli investimenti, che fossero figli vestiti adeguati a un sistema di questo tipo, invece che calati dall'alto su realtà che sono molto diverse dalle nostre. Quello che va bene a un paese in cui la taglia media d'impresa come quella tedesca è 5, 6, 7 volte superiore a quella italiana, non va bene in un paese che ha tantissime microimprese che però hanno saputo fare, continuano a fare i salti mortali. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta, 16:48, primi di 41 secondi. Ci occupiamo oggi di un interrogativo un po' singolare, ma tante sono le domande singolari quando la crisi continua a essere così profonda, perché abbiamo in ascolto e collegata con noi a telefono un'imprenditrice che ci ha raccontato come, bidonata da 3 clienti privati, alla fine della fiera, fatti e numeri alla mano, si è trovata meglio con il piano di rateizzazione di Equitalia, cioè con lo Stato, che con le banche, che non hanno cambiato invece criteri per la valutazione del merito di credito. Vediamo un po' come rispondete voi a questa domanda. Sono arrivati molti sms, inizio a leggerne qualcuno. C'è chi risolutamente dice: no, la gravità della crisi in realtà non l'ha capita bene né nello Stato, né le banche, né i vari governi che continuano a succedersi, dicendo ogni volta che ogni anno c'è la ripresa dietro l'angolo del 2-3% del PIL. Molti però, e ne leggo solo uno ma sono diversi, dicono: sicuramente, ha ragione l'imprenditrice, lo Stato tardi e male, anche se meriterebbe un tre in pagella, sto leggendo il vostro messaggio, ha capito un po' meglio di quanto continuino a non capire le banche. Nadia ha un'opinione diversa: in base alla mia esperienza lavorativa devo dire le banche. Quindi diciamo che abbiamo le opinioni molto diverse, almeno sugli sms. Poi Rino Stelletti mi chiede di leggere questo, io lo leggo. Il Banco di Sardegna chiede a un operaio 10 euro per comunicargli la giacenza media del conto corrente, dato necessario per redigere il nuovo ISEE. Ditelo in maniera che Renzi sappia quali sono gli oneri dei criteri di accertamento dei redditi. A me lascia molto perplessa questa richiesta di 10 euro, quindi io chiedo all'ascoltatore di farcene sapere di più, perché se è così questo vale una trasmissione, perché quello è un dato obbligatorio che le banche sono sono obbligate da gennaio a comunicare al governo, e che ci sia una traslazione diretta al cliente esplicita, beh, questo secondo me vale la pena che ce ne occupiamo. Quindi Rino, per favore, fatti vivo, anche se qui abbiamo il tuo numero di telefono, ora che me ne rendo conto. Quindi allora sentiamo invece qualche telefonata. Silvio dalla provincia di Cuneo, prego Silvio. Grazie Giannino, io sono sono imprenditore da 30 anni, ne ho 49, adesso sto facendo un'operazione, io faccio il cioccolatiere, esportiamo in tutto il mondo e abbiamo dei trend di crescita esponenziali, sì, no? Quindi stiamo andando bene, ho in previsione di fare un investimento da 5 milioni di euro il prossimo anno, ah, e di conseguenza un'assunzione di almeno una quindicina di persone. Meno male. Abbiamo fatto un progetto con le banche, stiamo facendo un business plan interessante. Il problema delle banche è che, vabbè, a parte gli imprenditori, che spesso non tutti sono all'altezza di fare gli imprenditori, e questo bisogna anche dirlo, non è che ci sia una scuola specifica per essere buoni imprenditori, però il sistema con cui vengono fatti i mutui spesso è lacunoso. Bisognerebbe, per evitare i fallimenti delle aziende e anche la messa fuori dalle case di chi ha i mutui casa, che le banche, basterebbe proprio una modifica del testo di legge, che trasformassero le ipoteche in temporanee, sì, proprietà. Sì, sì, esattamente. E quindi la banca non perderebbe nessuno dei suoi valori di garanzia. Esatto, a valori di libero in termini patrimoniali, lei ha perfettamente ragione. Sì, sì, vada, dica. Appartamenti che poi non valgono più nemmeno il valore del pane. Esattamente. Quindi io non sono un economista, io faccio il cioccolatiere. No, però questo è esattamente un buon esempio di criterio contabile patrimoniale che salva a quel punto i coefficienti di capitale della banca, virgola, non inguaia chi sta nella casa e garantisce la banca anche su redditi futuri provenienti dal cliente e dall'immobile. Quindi è esattamente un esempio delle cose da fare nella crisi e che noi non abbiamo visto sistemicamente fare dalle banche. Michele, dalla provincia di Brescia, qual è la sua opinione? Dottor Zanino, buongiorno, sono un direttore di una piccola filiale di banca. Eccoci. Volevo esprimere la mia opinione relativamente al suo concetto di prima, secondo cui diceva che le banche adesso stanno dando meno credito, bisogna cambiare. No, non lo dico io, lo dicono i dati mensili di Banca d'Italia. Quindi. Benissimo, perfetto. Io volevo solo fare una puntualizzazione. Il problema nostro è che, diciamo che dall'anno scorso siamo... Le banche grandi sono passate sotto la vigilanza della BCE. Certo. Noi dobbiamo variare, cambiare in maniera radicale il modo che abbiamo utilizzato di pensare negli ultimi 50 anni. Verissimo. Fino ad oggi noi concedevamo credito perché c'erano delle garanzie collaterali che assistevano a posizione. Esatto. Questo vuol dire che io davo i soldi a Tizio perché avevo Caio che mi supportava, che certo, mi lasciava garanzia, certo, a prescindere che Tizio fosse o meno in grado di assolvere il suo debito. Io oggi, per mandare una pratica in delibera, devo avere la certezza che colui al quale erogo il prestito deve essere in grado di rimborsarmi la mia rata, a prescindere dal fatto che abbia anche il più ricco di questo mondo che mi garantisce la posizione. Questo è un sistema di pensiero che in Europa è ormai all'ordine del giorno. Purtroppo in Italia questo sistema non esiste. Io sono d'accordo, ma infatti l'esempio che lei fa è del fatto che le banche ordinarie universali italiane, non avendo fatto esercizio di concessione di merito di credito a medio termine, storicamente non lo hanno fatto e solo negli ultimi, con la riforma poi del testo unico bancario, ci sono arrivati, questo mestiere non lo sanno fare ed è un mestiere complicato, ma che non si può risolvere nel chiudere i rubinetti, tranne che in presenza ancora delle vecchie garanzie reali, se no succede esattamente quello che succede, cioè si manda un tessuto produttivo senza distinguere gli imprenditori buoni, senza più un piano industriale o avendo perso la nicchia di mercato dagli altri. È esattamente questa la sfida che è di fronte a noi, purtroppo. E ahimè, c'erano tante altre telefonate, ma mi hanno detto che oggi dobbiamo chiudere a 55 e quindi a me tocca ringraziare Gloria Gasparini facendo gli auguri e un abbraccio per naturalmente la sua amica impresa, e grazie a tutti voi che avete telefonato, continuate con Radio 24, ma soprattutto domani alle 10 alle 12 i conti della Belva, parleremo, volete uscire dall'euro, con Claudio Borghi della Lega, quindi leghisti, non leghisti, quelli che vogliono uscire, domani telefonate all'800 24 00 24 dalle 10 alle 12.